Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo alle 7:20 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua pronti a leggere i giornali. Vi ricordo anche che oggi parleremo di scuola, perché ci vorremmo concentrare su questa ricerca che ha sancito come gli italiani adulti siano ignoranti, ultimi nell'apprendimento della lingua. L'italiano, penultimi nell'apprendimento della matematica. Questa è la popolazione tra i 16 e i 65 anni, secondo una ricerca che ho rispetto a altri 25 paesi dell'OCSE, 25 paesi sviluppati come noi dal punto di vista economico. Ultimi, siamo ignoranti. Chissà perché si investe poco nella scuola, si investe abbastanza ma si investe male. Ne parleremo alle 8:15, avremo con noi Andrea Ichino, torna docente di economia politica a Bologna. Avremo con il segretario della CGIL Scuola Mimmo Pantaleo per parlare anche con voi perché siamo un popolo così ignorante dal punto di vista dell'apprendimento. E il ministro Giovannini è andato un po' in là, dice: visto che siamo così ignoranti siamo anche inoccupabili, e questo ha suscitato polemiche. Ne parliamo più avanti, ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. Questo venerdì 11 ottobre, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre sulla situazione all'Italia, svolta sui soci in campo Poste Banche, ed è anche il titolo di apertura del Corriere della Sera. Le poste in soccorso di Alitalia e Il Messaggero, le poste in Alitalia, ecco il piano. La politica, immigrati, grillini nel caos, così apre La Stampa. Immigrati, il diktat di Grillo, così apre Repubblica. Il giornale, si spacca anche Grillo. Il Fatto Quotidiano, immigrati, il no di Grillo scatena la rivolta 5 Stelle. No alle leggi Bossi-Grillo, così titola invece l'Unità. Grillo arresta gli scafisti del PD, è il titolo di Libero. Stelle nere è invece il titolo del Manifesto, e mette le foto di Casaleggio e Grillo, mentre clandestini a 5 Stelle apre così Avvenire. Insomma, come vedete, è il titolo principale della politica. Voglio però partire da una notizia come abbiamo sentito anche nel giornale radio. Quando si spargono queste notizie legate a episodi di cronaca nera, rinascono le solite polemiche. Io devo dire la mia convinzione, in questo caso mi sembrano polemiche davvero pretestuose. Ci si lamenta tanto delle carceri sovraffollate, si dice che le carceri devono essere anche un luogo di rieducazione, oltre che di espiazione della pena. Ebbene, ci sono già le polemiche, perché su tutti i giornali la notizia è questa. Anna Maria Franzoni, colei che nel 2002 uccise a Cogne il figlio Samuele e per questo deve scontare anni di carcere, è al mattino libera, nel senso che libera, esce dal carcere, va a lavorare. Dunque, lavoro esterno in una cooperativa, dove fanno borse, all'interno di una parrocchia, e poi a sera torna in carcere. Franzoni, sì al lavoro esterno, finalmente torno a vivere. Questo è per esempio l'articolo della Stampa, pagina 16, un'intera pagina, Pierangelo Sapegno. Dicono che il primo giorno abbia detto solo: ora torno a vivere, mentre le altre detenute le facevano i complimenti. In paese, a Ripoli Santa Cristina, dicono che faranno suonare le campane a festa quando tornerà di nuovo qui tra di noi. Eccola, Anna Maria Franzoni lavora fuori dal carcere 5 anni dopo esserci entrata, 6 anni dopo la condanna e quasi 12 dopo la morte del piccolo Samuele, 31 gennaio 2002. L'hanno ammessa in una cooperativa di Bologna che si chiama Siamo Qua, e fa prodotti di abbigliamento, in particolare borse. La sede è in una parrocchia vicino al carcere della Dozza. Ha cominciato lunedì, sembrava serena, hanno detto: è molto cambiata, i capelli sono più gonfi, una chioma quasi scarmigliata, come la ritrae una foto dietro le sbarre, e il suo silenzio nasconderebbe una donna diversa, così lontana dalla donna isterica che scoppiava in lacrime davanti alle telecamere. Ora passa molto tempo tra i libri che distribuisce alle altre detenute, ha stretto rapporti profondi con parecchie di loro, che con forte aiuta è amica di una musulmana e l'ha convertita alla religione cristiana. Così scrive Pierangelo Sapegno. Comunque tutti i giornali scrivono una pagina su questo su questa vicenda. Ricordate il delitto che più ha diviso e più anche ha appassionato, è inutile negarlo, l'Italia. Ricordate il mitico plastico della villa di Cogne da Bruno Vespa. Franzoni libera di giorno per lavorare, così titola il Corriere della Sera. Libero la mette in tono più polemico, in prima pagina: uccise il figlio, la Franzoni è già fuori, l'articolo di Alessandro Dell'Orto. Oppure il Quotidiano Nazionale: Franzoni al lavoro fuori dal carcere, dopo tanti anni torna a vivere. Insomma, tutti i giornali hanno una pagina dedicata a questa vicenda. Al Secolo XIX mette abbinata anche un'altra storia un po' meno famosa, salì meno alla ribalta, ma ugualmente seguita, quella delle vittime delle bestie di Satana, e racconta come invece Elisabetta Ballarin, condannata per l'omicidio di Mariangela Pezzotta, lavora nell'ufficio turistico di Monte Isola in provincia di Brescia. E vabbè, insomma, il tema carcere e grandi delitti. Per iniziare la politica, beh, risuona ancora quel "siete ladri" che l'onorevole Fraccaro, deputato del Movimento 5 Stelle, ha lanciato ieri in aula mentre si discuteva la legge sul finanziamento ai partiti, e che ha suscitato un vespaio di polemiche. La discussione è appunto quella di come cambiare la legge che dal 2017 dovrà sostituire quella attuale sul finanziamento ai partiti. Partiti ladri, il Movimento 5 Stelle provoca, scrive Repubblica. Alla Camera scoppia la bagarre. C'è stato anche il gesto di Mario Sberna, che per primo qui a 24 Mattino vi avevamo fatto conoscere. È colui che rinuncia a gran parte dello stipendio parlamentare, lui che era l'ex presidente dell'associazione Famiglie Numerose in Italia, ha cinque figli credo, spero di non sbagliare, forse ne ha sei, forse ne ha cinque, mi dispiace, non ricordo bene. Mario Sberna dice: io tengo solo 3.500 euro, vivo spostandomi in seconda classe. Allora ieri, quando si è sentito dare del ladro, cosa ha fatto? Ha alzato il sandalo francescano con cui si presenta e va in giro brandendolo in aula, e viene intervistato da Repubblica. Sberna il sandalo stile Khrushchev: aiuto i poveri io, basta insultarci, ho fatto quello che fanno i poveri quando si arrabbiano, mi son tolto il sandalo, ho cominciato a agitarlo in faccia all'onorevole Fraccaro. Attorno a me tutti ridevano perché la suola ha un buco, ma non mi importa, non mi faccio dare del ladro da uno eletto con 30 click. Ma voleva lanciarglielo in faccia? No, no, per carità. Questo Fraccaro però, che comincia a leggere il suo intervento, e quando lo sento dire "continueremo a chiamarvi ladri", ti giuro, mi è venuto un raptus nervoso. Io dell'indennità mi tengo solo 2.500 euro, ah non 3.000, 2.500 euro. Il resto lo do alle suore, ai disoccupati, alla Caritas. Mi sono fatto 4 anni nelle favelas brasiliate con la Egle. Sono stato in Burundi, in Etiopia, in Abissinia, tra gli ultimi. Ai miei 5 figli, ecco, almeno questo ho azzeccato, ho insegnato che tutto quello che si ha va condiviso, e questo ragazzino si permette di insultare un uomo di 53 anni. Eh no, tu, il Mario Sberna tra i ladri, non ce lo metti. Così Mario Sberna, deputato di Scelta Civica. Dico anche che una forma di finanziamento ai partiti ci deve essere, se no i miliardari come Berlusconi o come Grillo, la cui moglie si bagna le chiappe sulle spiagge di Malindi, si prendono tutto. E a Fraccaro gli ho detto: guarda che io non sono né il tuo segretario né tuo fratello. E lui ma ha detto che non intendeva generalizzare, ma non ne posso più di questa continua ingiuria, di questa arroganza. Questo Parlamento è fatto di tante brave persone. Ultima domanda di Concetto Vecchio su Repubblica: ma perché non aggiusta il buco della suola? È autunno, i negozi non vendono più sandali, me lo tengo così per tutto l'inverno. Così il deputato Mario Sberna, che gira in sandali e tiene 2.500 euro perché, come spiegò qui a 24 Mattino, ho sempre vissuto così ed è giusto, anche entrando in politica, mantenere lo stesso tenore di vita. In tutto questo è interessante ciò che sui soldi dei partiti scrive il Sole 24 Ore oggi con Mariolina Sesto, pagina 15, l'elenco e i bilanci dei partiti tutti analizzati. Ebbene, i bilanci sono i conti in rosso del PD, chiusura con un rosso di 7,3 milioni di euro dopo aver chiuso nel 2012. Il tesoriere Misiani dice colpa soprattutto del dimezzamento dei contributi elettorali varati l'anno scorso, mentre il PDL ha un avanzo di 5 milioni. Un avanzo di 5 milioni che però va a coprire un disavanzo passato. C'è tra l'altro il vice tesoriere Maurizio Bianconi che dice: uno dei problemi è che la maggior parte o molti degli esponenti del partito non pagano la quota di iscrizione al partito stesso, cioè esponenti del PDL che non pagano la quota al partito. Dice Bianconi: c'è chi paga e chi no. Purtroppo non abbiamo alcun strumento giuridico per pagare le quote che si versano su base volontaria. In realtà l'avanzo preciso del Popolo della Libertà è 3.746.870 euro. Vabbè, ci fermiamo per la pubblicità e poi ripartiamo da che cosa? Al tema politico, la clandestinità che spacca il Movimento 5 Stelle e poi l'economia con Alitalia in primo piano. 24 mattino. E allora siamo qua alle 7:34 minuti, torniamo a leggere i giornali partendo dalla notizia politica del giorno con cui aprono i vari quotidiani, vale a dire il... di sfida all'interno del Movimento 5 Stelle per la questione del reato di clandestinità. Due senatori, Cioffi e Buccarella, del Movimento Grillino, hanno proposto questo emendamento per togliere il reato di clandestinità. Sono stati sconfessati da un post di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Ieri è scoppiato ovviamente il dibattito, il putiferio all'interno del Movimento 5 Stelle. Clandestinità, Grillo sconfessa i suoi, titola per esempio il Corriere della Sera pagina 5 con Virginia Piccolillo, con le minacce anche di Casaleggio: vado via se si insiste su questa strada. Ci sono delle regole, ci diamo delle regole o ci danno delle regole? Ecco il tweet per esempio di Luis Orellana, voce critica del Movimento 5 Stelle, la dice lunga sullo stato di un movimento sull'orlo di una crisi di nervi, scrive nel suo articolo Alessandro Trocino. E anche Virginia Piccolillo nella stessa pagina scrive: la cronaca molto confusa di una giornata all'interno del movimento, contrordine, la clandestinità deve restare reato. La frenata più brusca è quella di Beppe Grillo, l'abolizione del reato di clandestinità non era nel programma, ha twittato in mattinata in coppia con Gianroberto Casaleggio, ricordando agli autori dell'emendamento che l'eletto portavoce ha come compito l'attuazione del programma e non diventare un dottor stranamore, e leggi di rilevanza sociale non previste devono essere prima discusse in assemblea, quindi proposte all'approvazione del movimento attraverso il blog. E ancora, al crescere delle proteste via web, l'ultimativo tweet è: io e Gianroberto la pensiamo così, cioè io e Casaleggio. I gruppi diventano una polveriera, titola Repubblica. Ora Beppe venga qui a spiegarci. L'out di Grillo è: o è così o ce ne andiamo. Questo è anche il retroscena sul Secolo XIX di un Beppe Grillo che ha detto: o è così o ce ne andiamo. Gli autori dell'emendamento, per esempio il senatore Cioffi, intervistato da Repubblica, da Annalisa Cuzzocrea, dice: è una schifezza. Inizia così il senatore Cioffi: non ha altra parola per definire il reato di clandestinità. Dobbiamo parlare di immigrazione o parlare di un post? Così non ci capiamo, inizia l'intervista. Noi siamo per l'abrogazione dell'articolo 10 bis della legge sull'immigrazione, perché comporta che appena un clandestino entra in Italia la procura deve aprire un fascicolo. E quindi chiediamo: i tribunali già ingolfati possono essere più ingolfati da questa cosa? E poi la domanda però all'interno del dibattito del Movimento 5 Stelle, alla domanda: Grillo è il vostro capo politico? Sentite come risponde il senatore Cioffi del Movimento 5 Stelle: ma va, è scritto così solo perché serviva per lo statuto, ma non diciamo sciocchezze. Quindi no, chi ha spinto all'espulsione di Adele Gambaro? Quella è stata decisa in Goppa Blog, non da Grillo. Non avete ancora capito niente. Insomma, sta di fatto che la stampa va a spulciare tutte le dichiarazioni, e lo fa Marco Bresolin a pagina 3, di Beppe Grillo in questi anni sul tema, e devo dire che effettivamente c'è una coerenza riguardo a quello che ha twittato ieri. Cioè, in tutte le dichiarazioni 2007, anche il 5 ottobre 2007, un paese non può scaricare sui suoi cittadini i problemi causati da decine di migliaia di Rom della Romania. 8 gennaio 2010, la risposta del solito coglione terzomondista è la stessa: sono qui da noi perché fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare, ma è il contrario, pagate gli italiani il giusto e ci sarebbe la fila di calabresi disoccupati per prendere il loro posto. 8 gennaio 2010, gli immigrati sono un bacino elettorale, uno strumento di distrazione di massa usato dai partiti. 23 gennaio 2012, la cittadinanza a chi nasce in Italia è senza senso, anche se i genitori non ne dispongono. 10 maggio 2013, lo ius soli è già un fatto acquisito se si è nati in Italia da genitori stranieri. Ancora 18 agosto 2013, sul blog critica il linguaggio politically correct che trasforma un immigrato clandestino in un rifugiato alla luce del sole. Insomma, Beppe Grillo è sempre stato questo, racconta la stampa, non è che ha cambiato linea. Ieri invece ha richiamato in qualche modo all'ordine perentoriamente coloro che all'interno del movimento, secondo lui, hanno cambiato la linea. Insomma, il dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle. All'interno del Popolo della Libertà invece si attende e la svolta potrebbe essere da qui al 15 ottobre, e il tema che sullo sfondo nella retroscena c'è sui giornali, si attende che Silvio Berlusconi scelga dove e se fare richiesta di servizi sociali entro il 15 ottobre. Il tentativo affidamento a casa, beh, questo è l'articolo più incredibile. Andrea Garibaldi sul Corriere della Sera, ci sono tutti che si sono proposti, l'ultimo è stato Francesco Storace, vieni a fare i servizi sociali al Giornale d'Italia, ma si è proposto Gino Strada, si è proposto a questi microfoni qui qualche giorno fa Vladimir Luxuria, vieni all'Arcigay a fare le cotonature delle parrucche, si è proposto il parroco del borgo di Sturla Valentino Porcile, gli prepara un programmino per i ragazzi di strada, c'è nessuno tocchi Caino, non c'è pace senza giustizia, insomma tutti un po' si sono offerti per avere Silvio Berlusconi come persona affidata ai servizi sociali dalla loro associazione. Ma la novità del Corriere della Sera è questa: potrebbe trascorrere il tempo con un assistente sociale che attesti l'avvenuto recupero tutto a casa sua, magari proponendo un lavoro di pubblica utilità in residenza, come ad esempio la stesura di un programma economico per le fasce più deboli della popolazione. Io vi giuro, cari ascoltatori, che quando l'ho letta non sapevo se ridere o strabuzzare gli occhi. Cioè, potrebbe essere questa la proposta che gli avvocati portano: Berlusconi rimanga a casa sua a fare un lavoro socialmente utile nella sua residenza, per esempio stendere un programma economico per le fasce più deboli della popolazione. Voglio subito chiamare in soccorso con la mia patatina bollente che cedo ogni giorno in mano a Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Berlusconi? Sempre più difficile. Sarebbe bello però, perché risolvere con un programma di una stesura di un programma economico il problema delle fasce più deboli non è male, cioè che sarebbe... No, poi tieni conto che a casa, lo dicevamo qualche mattina fa, a casa avrebbe anche l'ausilio della fidanzata che si è dimostrata brava, esatto, nella spending review, no? Esatto, un programma di spending review, esatto. Vabbè, sulla fidanzata lascia stare, che dopo che ti saluto ti ho tenuto lontano, ma devo leggere altre cose sui giornali. Bene, allora è un vero e proprio promo questo. No, ma dimmi che cosa c'è a proposito di stesure economiche sul Sole 24 Ore. No, ti vorrei parlare di stesure economiche che riguardano un po' più noi da vicino. Allora, innanzitutto, manovrina però uguale probabilmente aumento delle addizionali nei comuni, lo spiega bene Gianni Trovati oggi nelle prime pagine del Sole 24 Ore, vi rimando al suo articolo, la sostanza è che fino al 30 di novembre i comuni potrebbero decidere di aumentare l'addizionale, siccome la manovrina gli toglie dei soldi è probabile che lo faranno. Ma è chiaro, andava così. Io sai cosa ho twittato? Io sono sempre un po' irriverente, la manovrina metterà forse la tassina che finirà nel sederino, ovviamente, di tutti noi italiani. Vabbè, e quantomeno nel portafoglino, speriamo che il diminutivo sia anche relativo agli importi. Sì. Ti volevo segnalare invece una cosa che scrive Giovanni Negri, molto interessante: i siti internet sono responsabili se ci sono dei commenti anonimi, offensivi, sui siti medesimi. La Corte dei diritti dell'uomo, perché sostanzialmente anche il fatto di aver pubblicato un commento anonimo lesivo di, della reputazione di qualcuno porta traffico, può portare traffico al sito e quindi il sito ne risponda. Il caso deciso riguardava non riguardava l'Italia, però in qualche modo può fare scuola, perché come sai internet non è il posto più educato del mondo. Ah no, è anche un tema molto delicato per capire poi chi è il titolare del sito, insomma, però è interessante questa cosa, insomma. State attenti, insomma, ai vostri... esatto, specialmente anche quando si postano cose anonime. Ovviamente il sito aveva chiesto di perseguire direttamente il commentatore, ma essendo anonimo questo si sarebbe tradotto in un onere per il diffamato, il che non sembrava tanto corretto. Ti segnalo infine un'ultima cosa: spesometro è quella cosa che dovrebbe servire a misurare i consumi, quindi tu fai un acquisto sopra una certa cifra, viene trasmesso questo acquisto, è una delle N banche dati del fisco, hanno cambiato il modello, c'è un nuovo modello, lo spieghiamo sul Sole 24 Ore, non mi dilungo perché a quest'ora del mattino parlare di spesometro, di fisco, di modalità di invio alle banche ci mette già di buon umore. No, ma comunque sul Sole 24 Ore poi i dettagli sono più specifici. Grazie Mauro Meazza, come vedi ti ho tenuto lontano da Francesca Pascale e tutto il dibattito che c'è sui giornali. Io non ci volevo credere, insomma, adesso c'è il dibattito perché è tale, è un'altra ragazza, Michelle Bonev, ha detto ma che la messa in scena del finanziamento, la Pascale in realtà è lesbica e siamo stati insieme, con tanto di querela annunciata della Francesca Pascale nei confronti di Michelle Bonev. Repubblica dedica una pagina a questo, la Bonev rompe l'incantesimo, la Pascale è una messa in scena. Ma guardate qui, e torna a spunta anche le intercettazioni invece, il Fatto Quotidiano, una pagina dedicata a Grazia Capone, l'Angelina Jolie di Bari, è così conosciuta nel processo. Tarantini parla di Berlusconi così come racconta Antonio Massari, il titolo è esplicativo: mi faceva i grattini e voleva fidanzarsi con me, i grattini. Su Libero addirittura tutto l'interrogatorio, il magistrato voleva sapere, con Silvio lei aveva le mutandine? Pagina 10, tutta una pagina con la Grazia Capone che dice: beh, c'è stata una conversazione affettuosa, non so come dire, in camera. Cosa intende per affettuosa il giudice? Nel senso delle carezze, insomma, non so cosa vuole sapere. Cioè, non c'era nessun atto sessuale? No. Niente? No, assolutamente. Diciamo che le ha messo una mano sulla spalla, così, amichevolmente? È il giudice che interroga. No. E cosa è successo allora? Delle effusioni, così, un po' di più della pacca sulla spalla, ecco, però insomma, vabbè, lei come la definisce? Dice il giudice. Diciamo, è una cosa che lei fa normalmente quando le persone le capita. Eh sì, è una cosa che faccio normalmente se un uomo mi piace. Ah, quindi c'era il PM. Giudice, vogliamo chiedere cosa sono queste effusioni? Il PM, no? È così. Va avanti l'interrogatorio. Ci siamo sì alleggeriti dei vestiti. Vabbè, no, mi fermo. Vi prego, mandate il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Sì, allora, Alitalia è un tema che è molto dibattuto perché, come è il titolo del Sole 24 Ore, via al salvataggio. Il salvataggio vuol dire che ci sarà un aumento di capitale fino a 300 milioni, 75 milioni arriveranno dalle Poste, 75 milioni da garanzie pubbliche, 150 da soci privati, infine linee di credito bancari, dunque le banche per 200 milioni. Come ha raccontato Gianni Dragoni nel nostro GR, ma lo leggete anche sul Sole 24 Ore, l'intervento finanziario dello Stato per salvare l'Italia CAI dal fallimento lascia sul terreno non pochi interrogativi, soprattutto perché rispetto all'alternativa di mercato rappresentata dal commissariamento avviene senza che si conosca il progetto industriale alla base del salvataggio, e questo è il punto chiave. Questo progetto industriale oggi non esiste, lo ammette anche Palazzo Chigi nella nota di ieri, nella quale si esprime il governo soddisfazione per la volontà di Poste di partecipare come importante partner industriale alla ricapitalizzazione di Alitalia. L'Alitalia ha presentato in luglio un nuovo piano nel quale annunciava lo sviluppo di rotte intercontinentali, ma quel piano è stato bloccato a causa delle difficoltà finanziarie. Dunque, Il tema è: va bene l'investimento, ma, scrive Dragoni, non c'è alcun piano industriale, e questo è il problema. Oh, mi ha colpito questa notizia, siamo in veloce rapida chiusura come sempre. Niente tasse a chi denuncia il racket, è la sfida del comune di Ercolano alla Camorra. Io la trovo una stupidata, se posso dire. Fulvio Buffi sul Corriere della Sera, cioè sempre il sistema all'italiana di dire, in questo caso, denunci il pizzo, che è un dovere, anche se difficile, capisco, in alcuni territori. Per questo ai commercianti il premio: non pagate le tasse. Ma cosa vuol dire? Ma perché? Perché? Perché uno non dovrebbe far pagare le tasse a una persona che denuncia il pizzo? Non lo capisco. Comunque, questa è l'iniziativa di Ercolano, la trovate sul Corriere. I negozianti hanno anche testimoniato contro la criminalità organizzata. Niente tasse a chi denuncia il racket. Ecco la sfida di Ercolano alla Camorra. Trovate tante notizie invece della vicenda di cui ci siamo occupati anche qui, la cura, anzi presunta cura, anzi non cura, adesso dovremmo dire stamina. Il ministero, abbiamo avuto in settimana anche il ministro Lorenzini, il ministero ha bloccato tutto. Cure pericolose per la salute, il ministero blocca stamina. Il titolare di questo metodo, Vannoni, ha detto: andremo all'estero. Le famiglie protestano, e Avvenire a pagina 9 dice: ora qualcuno dovrà chiedere scusa. L'umiltà di chiedere scusa riconoscendo errori gravi di valutazione nei confronti delle famiglie di pazienti colpite da malattie sinora incurabili. Cure pericolose, bocciato il metodo stamina. Arriva lo stop del ministro. È un pericolo questa presunta cura, sancisce il ministero. Vabbè. C'è tutto un dibattito innescato da che cosa? Lo accenno solamente, La Stampa fa una pagina, da Michel Hunziker, che ha partorito ieri, ovviamente tanti tanti auguri, e che fa lunedì, che fa Peter? Torna al lavoro, 3 giorni dopo il parto. La Stampa si interroga, Michel Hunziker certo dice non è una malattia e quindi a 4 giorni dal parto torna a lavorare, ma La Stampa si interroga se sia giusto non allentare mai la presa, e riparte il dibattito delle mamme, così dire, multitasking e acrobate che fanno 1150 cose. Vabbè, non avrà certamente problemi per pagare una decina di babysitter, questo è chiaro. Detto questo, alle 7.53 minuti al momento della carta costa, il premio più ambito della rassegna stampa di Radio 24, l'articolo più inutile scovato sui giornali, solo su Libero, dove c'è una difesa strenue, a firma Carlo Cambia, pagina 21, giù le mani dalla polenta, con tanto di paiolone di polenta fotografato, perché il CNR di Napoli, con il ricercatore De Fez, dice: attenzione, troppa polenta fa male. E certo, dice Libero, ecco il napoletano De Fez contro la specialità del nord. Un colpo basso al nostro piatto povero diventato vanto degli chef, in difesa della polenta. Così Libero, che dice: beh, certo, anche la carne fa male se uno mangia un bue intero. Non toccate la polenta, dice Libero, senza dimenticare che la carta costa. Oh, so duri, non gliela fanno. La carta costa.